GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le cerimonie del 2 giugno in regione, al Sacrario di Re di Puglia in omaggio ai caduti, alza bandiera e onorificenza al merito della Repubblica nei capoluoghi. A Udine apre al pubblico il Palazzo della Prefettura, un'occasione di solidarietà per aiutare le popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna e ricordare l'importanza del dono del sangue. La ripartenza di Porto Piccolo, il centro turistico nella baia di Sistiana con il nuovo gestore NH Hotel, sarà ridotta. Riaprono hotel e ristorante ma con contratti a tempo determinato. La proposta non piace ai sindacati che chiedono il coinvolgimento delle istituzioni. In Friuli Venezia Giulia crescono i redditi dopo il Covid, ma le donne dichiarano 10.000 euro in meno degli uomini. Indagine IRES sui divari di reddito in base alle dichiarazioni 2022. A Gorizia sono in corso le ricerche di una donna di 77 anni scomparsa nel pomeriggio di ieri da una struttura nei pressi del Parco Piuma. Malore in montagna, uomo ricoverato a Tolmezzo, si tratta di un 75enne che si è sentito male a quota 1300 metri in una zona difficilmente raggiungibile a Socchieve in Carnia. Curata nel centro di recupero della fauna selvatica di Campoformido, è tornata questa mattina in libertà a Marano Helga, una femmina di falco pescatore. Presenze e abbonamenti in crescita e tanti giovani al Teatro Verdi di Gorizia, è positivo il bilancio del primo anno dopo la pandemia. Basket, Apu al via la semifinale contro Forlì in Romagna, Palasport messo a disposizione a tempo di record dopo l'alluvione, la serie comincia stasera, Friulani a completo, in palio la finale per andare in Serie A1. Atleti da tutto il mondo a Sacile per mettersi alla prova in evoluzioni da brivido, ma agli Extreme Days c'è spazio anche per i neofiti. Buongiorno, ben ritrovati da Lara Zani e Francesca Vigori. Il 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana in apertura. La cerimonia principale si è celebrata al Sacrario Militare di Re di Puglia, alla presenza del vice ministro all'ambiente Vanni Agava, che ha ricordato come oggi la crisi climatica costi vittime e perdite materiali. Il servizio. C'è il sole a Re di Puglia, un sole caldo fuori ordinanza che mette a dura prova i reduci ma anche i reparti delle varie armi nell'attesa di 40 minuti che il cerimoniale impone fra lo schieramento e l'arrivo delle autorità. Proprio tra i militari si registrano alcuni mancamenti. Il programma si dipana con la regia del comando militare dell'esercito guidato dal colonnello Maffei. C'è il generale di divisione Ugo Cillo fra le autorità. In rappresentanza del governo la vice ministra all'ambiente Vanni Agava. La 99enne Paola Del Din, partigiana o patriota come si definisce lei, legge la motivazione del conferimento della medaglia d'oro al valor militare al milite ignoto. La fanfara della Iulia esegue il 24 maggio, a Re di Puglia riposano i resti di 100.000 caduti della Grande Guerra. Il loro sacrificio, dice Gava durante il suo breve intervento, non deve essere dimenticato. Re di Puglia ci ricorda il prezzo della libertà e l'importanza di preservare la pace. Questo 2 giugno, la festa della Repubblica, dice ancora la vice ministra, è l'occasione per riaffermare l'importanza della democrazia e dei diritti umani come pilastri della nostra società. Il nostro paese sta affrontando un momento difficile, ma le difficoltà creano opportunità. Autonomia, innovazione e istruzione di qualità devono essere strumenti per costruire un'Italia più resiliente e sostenibile. Oggi una delle battaglie da vincere è quella sull'ambiente. La crisi climatica porta gravi perdite umane e materiali all'Italia, come ha confermato l'alluvione in Emilia-Romagna. Re di Puglia, Giampaolo Mauro, TGR Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda gli altri capoluoghi, a Trieste dalle 17 in Piazza Unità esibizione con musica d'ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. A seguire gli onori al commissario del governo nella regione Friuli Venezia Giulia, prefetto di Trieste, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana e la Maina Bandiera. Per la categoria grandi ufficiali riceveranno il diploma Francesco Peroni, ex rettore dell'Università di Trieste e consigliere superiore della Banca d'Italia, e Gianfranco Sinagra, direttore del Dipartimento Cardiovascolare di Trieste. Alle 21 in Piazza Verdi, concerto del Conservatorio di Musica Tartini. A Udine, alle 17, nei giardini della Prefettura, la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica, mentre a Gorizia la stessa cerimonia si svolgerà alle 17.30 nel Parco del Palazzo del Governo. A Pordenone la consegna è stata effettuata in mattinata in Biblioteca Civica. In occasione della festa della Repubblica sono tornate a volare le frecce tricolori. Lo hanno fatto con un sorvolo sopra l'altare della Patria a Roma. Dopo lo stop seguito all'incidente aereo di Lusevera, la caduta di un ultraleggero nel quale aveva perso la vita il capitano Alessio Gersi assieme a un familiare. A ricoprire la posizione di secondo gregario destro Pony 5, che era di Gersi, è stato scelto il maggiore Federico De Cecco. Molti udinesi questa mattina hanno approfittato dell'apertura straordinaria del Palazzo della Prefettura dopo aver partecipato alla cerimonia dell'alza bandiera in Piazza Libertà. Un 77° anniversario della proclamazione della Repubblica all'insegna della solidarietà, quello svolto a Udine. Una giornata iniziata con la cerimonia dell'alza bandiera in Piazza Libertà e la deposizione di una corona al monumento ai caduti. Negli spazi della prefettura in via Pracchiuso, arrivo ed esibizione della filarmonica di Vergnacco della sezione Associazione Nazionale Alpini di Udine e il coro provinciale dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue di Udine. Presente anche con l'emoteca per ricordare l'importanza del dono. Alcuni intermezzi sono stati curati dal Liceo Musicale Percotto e poi anche le realizzazioni artistiche dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo nel cortile interno della prefettura. È comunque una bella occasione per dimostrare quello che facciamo e anche una bella collaborazione con la fanfara, con il coro e con i ragazzi dell'artistico anche. Massimo Marchesiello, prefetto di Udine. Un'iniziativa dove la solidarietà a questo punto è fondamentale, e quindi il senso di solidarietà che sia l'associazione donatori di sangue sia anche una richiesta di contributo per l'emergenza dell'alluvione in Emilia Romagna è dovuto. I valori della Costituzione sempre più attuali? Sempre più attuali e purtroppo a volte spesso dimenticati. Sono molti doveri dietro tutto, dietro la Costituzione, diritti ma tanti doveri, e credo che oggi anzi l'intervista del professor Viroli si accentuerà molto su questo aspetto. Non c'era occasione migliore per portare la famiglia in una giornata così importante qui in questa struttura bellissima che forse diciamo la città di Udine dovrebbe conoscere, dovrebbe avere occasione appunto di visitarla. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il nuovo gestore di Porto Piccolo, NH Hotel, ha annunciato di voler ripartire con contratti a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre e di non riavviare per il momento il centro benessere più grande, una proposta che i sindacati definiscono irricevibile. Non parte proprio col piede giusto, ma almeno la stagione a Porto Piccolo, il gioiello turistico immerso dinanzi alla Baia di Sistiana, parte. Per fine giugno dovrebbero tornare in attività l'hotel Falisia, unico 5 stelle in Friuli Venezia Giulia, l'annesso centro benessere e il ristorante Maxi. A metà mese il personale disponibile seguirà un breve periodo di formazione. L'accordo fra il Fondo Internazionale proprietario del complesso e la NH Hotel, il nuovo gestore, è stato firmato il 31 maggio e quello stesso giorno c'era stato un incontro tecnico presso la regione che aveva coinvolto anche i sindacati. A deludere i rappresentanti dei lavoratori, l'intenzione di NH Hotel, che fa capo a un gruppo thailandese, di partire con contratti a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre. Al momento in cassa integrazione straordinaria risultano ancora 45 lavoratori, altri dei circa 80 originari hanno trovato altre occupazioni durante questo periodo di crisi e di incertezza. E almeno per essi i sindacati chiedono contratti a tempo indeterminato. Il nuovo gestore ha comunicato di aver bisogno per questo primo periodo di circa 90 persone, che a regime, in un secondo momento, potrebbero diventare 190. NH ha esplicitato di voler stipulare assunzioni definitive in questa prima fase solo a figure come capi manutentori e cuochi, rinviando a gennaio la stabilizzazione di altri dipendenti. Al momento, dunque, restano fuori dalla ripresa dell'attività il centro benessere più grande e anche la gestione di una serie di appartamenti. I sindacati hanno definito irricevibile la proposta e chiesto un coinvolgimento politico e istituzionale nella vicenda dell'assessore regionale al lavoro Rosolen e del sindaco di Duino Aurisina Gabrovez. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. I redditi dopo il Covid sono tornati a crescere, ma le donne continuano a guadagnare meno degli uomini. È il dato chiave che emerge da un'analisi dell'IRES, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia, sui dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Esaminando le dichiarazioni IRPEF del 2022, riferite dunque all'anno precedente, il reddito medio degli abitanti del Friuli Venezia Giulia risulta nettamente in crescita. 23.510 euro di media su oltre 920.000 contribuenti, 951 euro in più rispetto all'anno precedente. Il dato però scende a 18.494 euro tra le donne e sale a 28.300 euro tra gli uomini ed è una distanza in ulteriore crescita, visto che l'aumento di reddito è stato più accentuato nella componente maschile che in quella femminile. Un effetto, scrive Alessandro Russo, autore della ricerca IES in materia, di una bassa partecipazione al mercato del lavoro e di una maggiore diffusione tra le donne degli impieghi a tempo parziale e così la percentuale femminile di coloro che dichiarano più di 40.000 euro si attesta al 25,6%, un terzo del totale. La provincia con la media IRPEF più alta lo scorso anno era quella di Trieste con quasi 25.000 euro, seguita da Pordenone con quasi 23.600, da Udine con circa 23.200 e da Gorizia con circa 22.000 euro. I redditi più elevati li hanno i contribuenti fra i 45 e i 64 anni, quasi 28.000 euro, contro i 22.800 circa degli over 65 e i 20.800 della fascia tra i 25 e i 44 anni. Relativamente pochi i ragazzi sotto i 25 anni che dichiarano un reddito, sono circa 41.000 e per loro il reddito medio è addirittura diminuito del 7,6%. I contribuenti nati all'estero sono quasi il 15% del totale e dichiarano in media circa 7.500 euro in meno rispetto a quelli nati in Italia. Un dato che rispecchia soprattutto la situazione dei cittadini immigrati e in questo gruppo di persone la condizione femminile è la peggiore in assoluto, con un reddito di solo 13.413 euro in un anno. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. Il primo trimestre 2023 registra nel mondo dell'artigianato udinese un ritorno alla natalità d'impresa con valori che non si vedevano da oltre 5 anni. Tra gennaio e marzo, infatti, sono state 327 le aziende iscritte nel relativo albo della provincia di Udine, il numero più alto registrato dal 2017. Per la prima volta dal 2000, inoltre, nei primi 3 mesi dell'anno, la differenza tra imprese iscritte e cessate è stato positivo. È un buon segnale, commenta il presidente di Confartigianato Imprese Udine, Graziano Tilatti, ma anche la dimostrazione di come il Covid abbia almeno una cosa positiva abbia lasciato dietro il suo devastante passaggio. Mi riferisco alla voglia di intraprendere. A scattare l'istantanea è l'ufficio studi di Confartigianato Udine sulla base dei dati Union Camere, Infocamere, Stock View. I settori più effervescenti sono estetica e artigianato artistico, mentre a dispetto di una stagione ricca di contributi e bonus per il recupero degli immobili e l'efficientamento energetico, l'edilizia si piazza solo al 10° posto e bisogna scendere all'ultimo posto della classifica per incontrare i termoidraulici, protagonisti della conversione energetica. Dati che non sorprendono Tilatti, il boom dell'edilizia c'è già stato, dice, e dunque non mi stupisce il fatto che non siano le imprese di quel settore a essere oggi tra le più dinamiche in termini di nuove iscrizioni. Ritengo che il comparto edile abbia raggiunto oggi un suo equilibrio dopo la stagione dei bonus, che speriamo si stabilizzi e consolidi. A Trieste sono in corso un corteo, una raccolta di firme e un presidio contro la guerra promossi da diverse realtà. La festa della Repubblica Italiana non può diventare un surrogato della festa delle Forze Armate, deve essere invece un richiamo alla Costituzione e al ricordo dell'orrore di tutte le guerre, compresa quella tra Russia e Ucraina, in un gioco di potere e di spartizione mondiale dove anche la NATO e l'Occidente hanno le loro colpe. Così il Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci, che anche oggi ha dato appuntamento a partiti e associazioni in Piazza Unità, dove nel 1938 furono annunciate le leggi razziali. Poco prima, da Piazza Volontari Giuliani, partiva un corteo con in testa bandiere No Green Pass e bandiere della pace. Negli slogan scanditi dagli organizzatori, anche contro il Presidente della Repubblica, il no alla guerra veniva accostato a quello più volte pronunciato dal movimento contro le misure di contenimento della pandemia. Il corteo sta raggiungendo Piazza Sant'Antonio, dove è in corso la raccolta di firme promossa a livello nazionale da 2 comitati referendari. I quesiti puntano ad abrogare una normativa eccezionale voluta dal governo Draghi e prorogata da quello attuale, che autorizza la fornitura di armi all'Ucraina, e un articolo di legge che consente di derogare al divieto di esportazione di armi in territori belligeranti. Il terzo quesito non c'entra con la guerra e punta all'esclusione dei privati dalla pianificazione sanitaria. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le 12.45, diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno, su pianura e costa, variabile in montagna. Le temperature registrate poco fa a Trieste 21 gradi, la temperatura del mare è di 19 gradi. A Gorizia 27 gradi, a Udine e Pordenone 25, a Tarvisio 22 gradi, a Tolmezzo 21, a Piancavallo e Forni di Sopra 18 gradi, a Sappada 15 gradi, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 13 gradi, a Lignano 25, a Grado 22, la temperatura del mare è di 20 gradi. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, dove già dalla tarda mattinata sono possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili comunque nel pomeriggio, quando potranno interessare anche le altre zone. Sulla costa, venti di brezza. Domani su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile, sulla zona montana variabile o nuvoloso. Saranno probabili rovesci o temporali sparsi, specie al pomeriggio e sulle zone interne. Sulla costa soffierà bora moderata, specie a Trieste, dove potrebbe essere anche sostenuta a tratti al mattino. Sono partite ieri sera e continuano per ora senza esito le ricerche in località Piuma a Gorizia di un'anziana donna che ieri pomeriggio si era allontanata da una struttura che la ospita senza più farvi ritorno. Attivato dalla prefettura l'apposito piano provinciale, nella ricerca sono impegnati una quindicina di vigili del fuoco, oltre a due operatori del nucleo cinofilo regionale, i sommozzatori del nucleo regionale di soccorso subacqueo dei vigili del fuoco di Trieste e due dronisti della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Veneto. Intervento di soccorso delle stazioni del soccorso alpino di Forni di Sopra e Forni a Voltri, Guardia di Finanza e degli soccorso alle 7 di questa mattina. La richiesta di aiuto è arrivata da un luogo molto selvaggio e isolato presso i ruderi dell'ex casera Pian della Gallina, a quota 1280 metri. È qui che un 75enne di Enemonzo ha accusato forti dolori al torace. A chiamare i soccorsi è stato il figlio, che era con lui. Ad arrivare per primo l'eli soccorso, che dopo aver con difficoltà individuato i due uomini vestiti di verde e molto mimetizzati con l'ambiente, ha sbarcato l'equipaggio tecnico di eli soccorso, medico e infermiere, con pattino a terra in una radura. L'uomo è stato monitorato e si è deciso per le sue condizioni di non reimbarcarlo, bensì di accompagnarlo a bordo del fuoristrada del figlio lungo la pista forestale fino all'abitato di Caprizi, dove è stato affidato all'ambulanza per essere condotto all'ospedale di Tolmezzo. Sono partiti i lavori per la piazzola dell'elisoccorso a Forni di Sopra. In questi giorni gli scavatori stanno lavorando per realizzare punto meteo e la piattaforma di atterraggio in zona parulana, già servita dalla strada che attualmente porta alla sede della Protezione Civile, che diverrà punto d'incontro con l'ambulanza. Stiamo cercando fondi per prenderne una come comune da lasciare sempre in loco in caso di emergenza, ha aggiunto il sindaco Marco Lenna. Il servizio, che consentirà di raggiungere in 20 minuti l'ospedale di Udine, servirà la vasta area compresa dal Passo Mauria fino ad Ampezzo e sarà attivo anche in orario notturno. Un radiofaro diretto dall'elicotterista consentirà di illuminare la piazzola a necessità. Attualmente l'ambulanza da Tolmezzo, se non è dislocata ad Ampezzo, impiega anche 50 minuti per raggiungere Forni di Sopra. È ritornata in libertà questa mattina nella riserva naturale Valle Canal Nuovo di Marano Lagunare Elga, una femmina adulta di falco pescatore. Dopo il ritrovamento, in aprile era stata curata nel centro di recupero della fauna selvatica di Campo Formido. Il falco pescatore è stato liberato, un esemplare femmina, l'ha ribattezzata Elga, Maurizio Zuliani, che è il fondatore e curatore del centro di recupero fauna selvatica di Campo Formido. La liberazione è avvenuta nella riserva naturale di Marano Lagunare, dove questo animale potrà trovare il massimo del comfort dal punto di vista almeno del cibo, perché è un animale che mangia soltanto pesci e qui sicuramente non mancano. Allora, Maurizio Zuliani, che giornata è stata questa per lei? Emozionante, perché non è stata una liberazione qualsiasi. No, infatti è vero, è stata una liberazione importantissima per me, per tutti quelli che lavorano al centro, e quindi questo animale è andato come volevo io, partito proprio velocemente, volava benissimo, Quindi sono stati 2 mesi di costante miglioramento da quando è arrivato da noi, che era arrivato quasi morto, è stato 4-5 giorni senza mangiare. Poi ha cominciato piano piano a muoversi, ha cominciato a fare i primi balzelli e aprendo le ali. Allora in quel punto ho detto bene, perfetto, continuiamo ad alimentarlo sempre con pesce fresco. L'ho messo in una voliera molto più grande dove era da solo assolutamente e da lì vedevo i miglioramenti ogni giorno. Pensate che solo il secondo falco pescatore che il centro di Campoformido ha ospitato in 26 anni di attività e su migliaia e migliaia di esemplari che ogni anno vengono ospitati, questo per far capire anche certo. La rarità di questa specie. Marano Lagunare, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono state 13.500 le presenze totalizzate nella stagione artistica 2022-2023 del Teatro Verdi di Gorizia, il 47% in più rispetto a quello precedente. Nell'anno del ritorno alla normalità per i teatri, in crescita risultano sia gli abbonamenti, complessivamente 880, che la percentuale di riempimento della sala, che ha superato il 70%. Una gradita novità è il dato sulla partecipazione dei giovani. Le presenze di studenti degli istituti cittadini esontini sono state infatti quasi 1.900, pari al 14% del totale. A premiare la stagione sono anche i questionari di gradimento compilati dal pubblico del teatro. La prosa nel suo complesso è stata valutata molto positivamente. Ciò che mi rende più lieto, commenta il direttore artistico Walter Mramor, è apprendere che il livello di gradimento del pubblico è stato eccezionalmente alto, attestandosi attorno al 94% nei cartelloni portanti, ovvero prosa e musica e balletto. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è la partecipazione dei giovani, risultato di un percorso di informazione e coinvolgimento dedicato agli insegnanti degli istituti superiori. Siamo allo sport, basket, dopo una settimana di attesa e riposo successiva all'estenuante derby in 5 atti contro Cividale, l'APU ricomincia la sua rincorsa alla Serie 1. Lo fa in Romagna, in quella Forlì colpita dall'alluvione. Gara 1 si gioca proprio nel Palasport forlivese, dopo che per giorni era circolata l'ipotesi del campo neutro, viste le condizioni dell'impianto recuperato invece in extremis. La squadra di Antimo Martino ha dominato la stagione finora. Contro l'Old Wild West sia d'andata che a ritorno 2 vittorie abbastanza nette, ma si parte da 0-0 con i bianconeri di Finetti con un roster decisamente superiore, specie dopo l'arrivo di Emmanuel Terry. L'americano, poco costante nella serie contro Cividale, è stato oggetto di lavoro supplementare in settimana per integrarlo meglio all'interno dei meccanismi di squadra. Per Forlì in campo ci saranno gli ex Gazzotti e Penna, ma l'obiettivo è quello di limitare l'apporto dell'americano Sanford e dell'eterno Cinciarini, 40 anni ma ancora tra i migliori, con 16 punti di media nel secco 3-0 del primo turno contro Chiusi. Friulani in campo stasera alle 20.30, si replica domenica sempre in Romagna alle 19. Poi per gara 3 ci si sposta al Carnera con appuntamento mercoledì 7 giugno alle 20. Sacile si prepara ad accogliere l'ottava edizione degli Extreme Days, l'evento sportivo di rilievo internazionale che si tiene da oggi al 4 giugno. Gli Extreme Days offriranno una vasta gamma di sport d'azione e freestyle che metteranno alla prova gli atleti di fama mondiale provenienti da tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con la presidente, Claudia Cigana. Durante gli Extreme Days di quest'anno ci saranno molte novità. Ci sarà un contest di skate e un contest di street boulder, 2 sport che dopo chi non ha mai provato questi sport può anche praticarli durante i workshop. Poi ci saranno le FMX in piazza per il main show, ci saranno le BMX con il campione italiano Alessandro Barbero e Manuel Schiavo, sempre un campione italiano di BMX. Poi avremo highline, tessuti aerei, arrampicata sugli alberi, c'è una pump track, c'è questa pista dove i bambini possono andare con le biciclette. Il nostro è un festival che è adatto proprio a tutte le famiglie e a tutte le età. Quindi anche per persone che non hanno mai praticato questi sport. Esatto, sì, perché con i workshop e l'experience ci saranno proprio degli istruttori che insegneranno a fare street boulder, possono fare la slackline, tessuti aerei, possono provare a fare skate, sia bambini che adulti. Il nostro giornale radio si chiude qui da Lara Zani e Francesca Vigori che lo hanno redatto e condotto, Mauro Ciccarelli e Giampaolo Zucchi che hanno curato la parte tecnica e Valentina Veneruso in redazione. Grazie per la cortese attenzione. L'informazione radiofonica regionale, ve lo ricordiamo, torna alle 18.30. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.